la morale? Che importa essere nati nel cortile delle anatre quando sei nati da un uovo di cigno? Adesso, adesso, i tuoi occhi possono vedere! Adesso, adesso, i cacciatori hanno cartucce di cera! Adesso, adesso, è sciolto il ghiaccio, il lago è mare! Adesso, adesso, un tuono sale dalle tue ali! Adesso! Adesso il mondo ti vola dentro! Cigno, cigno, cigno, cigno! Adesso, adesso, con tutti gli strumenti, tutti i sentimenti! E tabello che so, seo teo, cigno, cigno, cigno, cigno! Adesso, adesso, più larga è la tua mente, più vita nel tuo mondo! Adesso, adesso, più larga è la tua mente, più musica qui intorno. Adesso, adesso, colori nella tua mente, cigni bianchi tutti in tondo. Adesso, adesso, più larga è la tua mente, più musica qui intorno.